sembrava un sasso. Vabbè. Tanto però, per recuperare le forze. Non sei uscito per un attimo, Giuseppe. Si è sparito il radio. Guarda adesso. Ma adesso va bene. E l'ho detto, a me non ti sei riposato per un'ora e te l'hai fatta bella. Ah sì sì sì, proprio una bella dormita. Luca ha preso in giro poco fa perché ero mezzo dormito, va vedendo. Perché ero l'inchidente, Mario Gutto. Di nuovo te la fa. Di nuovo? Batteria o è qualche filo che sta partendo? Non c'è la batteria, boh. E chi lo sa, chi lo sa. Com'è la giornata oggi? Un po' ventosa, Chi vuole ubbidiare la moto, invece? Non so, per scendere a lavoro devo prendermi la moto. È proprio ora di bisamini, boh. Sì, vabbè. Scendere molto già va bene, però al rientro c'è freddo, No problem, c'è tutta la attrezzatura lì. C'è il giubbotto per la moto, non entra un filo d'aria. Il cappuccio per mettere sotto il casco. I pantaloni per andare in moto, i bottiti. Si scappa. Non aiutare a pigliare la moto. Ci stanno meglio in macchina, belli sdraiati, guidati. Scappa. Hai visto quel ragazzo il produttore che è morto sulla Buddi Buddi, sulla strada di Platano, Stanotte, no, ieri sera. Che ora? Ma sa che l'hanno detto di pomeriggio, che si è sceso con la macchina, in un campo che era abbastanza basso, non è che c'era da ammazzarsi, solo che la macchina ha capottato e lui l'ha sbattato fuori, l'ha ammazzato. Capo di cazzo. Non è tanto, ce n'è una, cazzo. 25 anni. Ma di dove era il sasso? Porto Torre. Paga. Stavo andando a trovare la ragazza a Sorso. La ragazza era di Sorso. Cappa. E sarà uscito all'incrocio della cosa per il vivo di Sorso. E io sto pensando che sia quella strada che va dalla 131 che porta dove c'è il ponticello che c'è quando era Marchetta e cose, quella strada lì mi sembra che sia. Ah, ho capito, la scena da Platamona, c'è il ponticello che gira per Marchetto e poi gira per Santo Quinico. Penso che sia lì, perché hanno fatto vedere una casa che mi sembra che sia lì. Non ho capito bene dove c'è, ma dovrebbe essere in quella zona lì, boh. Oh, iaia. Ah, dove? Il campo. Ce ne sono le 4:30. Cazzo, allora aspetta. Attenzione, su questa camionetta cambio. Avanti, chi è? No, da questa parte. Claudio, non si è sentito per niente. Negativo, Mauro. Ciao, Leoncino. Ciao, Lucio. No, niente, volevo sentire con Claudio, ma al limite adesso provo a telefonare, a meno che non ho uscito. La vita. Libera, se non doveva fare quando voglia fare la spesa, se ne scendeva con lo toro, si è capito. Mauro? Sì, ma quello stavo, che dovevo andare forse in pizzeria, ma anche a me, col fratello, ma c'è notte. La notte? Ma io l'ho sentito ieri sera, non so se è uscito con la moglie, non lo so. Ciao Mauro, anche a te, dai. Sì, io vado, in giro di andare a fuoco, che poi sta anche. Vabbè, cercheremo di farcela anche stasera. Ciao. ciao Luci, dai, dai, al limite stasera ci vediamo, non lo so, vediamo un po' come si è messo, dai. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, già, ciao, ciao, ci sentiamo. Dammi un colpo di telefono se in caso vuoi organizzare qualcosa, ci sentiamo per telefono, dai. Sì, vediamo, non troppo altro perché sono stanco già adesso. Se ne viene la luglia, vediamo un po' là. Gappa. Attenzione, Mauro. Mauro. Aspetta, sto guardando una cosa al computer. Ascolta, tu l'hai sentito quando cambia l'orario? Questo sabato o l'altro sabato? Di cambiare l'orario non ho sentito niente, non lo so, devo vedere, non so se è questo sabato o l'altro sabato, non lo so. Gianni, ci sei? No, vabbè, guarda la mia internet, siccome era Radio 105 ho detto che cambiava questo sabato, e invece cambia, allora, l'ora legale inizia il 27 marzo 2011 alle 2, l'ora legale termina la domenica 30 ottobre 2011. Capa, ma un'ora avanti o un'ora indietro, e com'è? Che so io, ma un'ora avanti. Un'ora avanti. Un'ora avanti, sì. Semmai un'ora indietro. Cosa hai detto? Semmai un'ora indietro, un'ora avanti in estate, un'ora indietro in inverno, infatti si dorme un'ora in più. L'ultima volta era un'ora indietro, o no? Adesso si torna un'ora indietro, in estate un'ora avanti, in inverno si dorme un'ora in più, ed estate si dorme un'ora in meno. Perché la radio stava facendo un'ora avanti, o stava facendo pettinata, l'altro giorno era 205. E la male che dovrebbe cambiare il quarto sabato, notte oppure l'altro sabato? No, c'è scritto che termina il 30 ottobre, quindi termina l'altro sabato. Ah, capa. E l'ho trovato, allora è l'estate va avanti di un'ora e l'inverno torna indietro di un'ora. E comunque l'altro sabato dove. Tra sabato e domenica notte, dell'altra settimana.